giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora una buona domenica da Elisabetta Zaccolo in studio per questa nuova edizione del nostro giornale radio GR, che apriremo con la cronaca. Pordenone, inseguimento notturno, un 21enne senza patente si scontra con l'auto della polizia. Andremo poi a Pordenone Legge per l'ultima giornata della kermesse letteraria, parleremo della giornata mondiale dell'Alzheimer e torneremo sulla sconfitta dell'Udinese a opera del Milan. Dunque la cronaca in apertura con l'episodio accaduto nella notte in centro a Pordenone, senza patente, dopo un inseguimento si scontra con l'auto della polizia. Viaggiavano di notte in cinque a bordo di un'auto, ma all'alta di una volante della Polizia di Stato non si sono fermati. Ne è scaturito un inseguimento finito con uno scontro. Alla guida dell'auto un 21enne di origine etiope, risultato poi senza patente. L'episodio è avvenuto attorno alle 3 di questa notte in Largo San Giovanni, a Pordenone. Nessun ferito grave, solo lievi contusioni per 2 agenti e 3 dei passeggeri che si trovavano a bordo della vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile, che hanno accertato che il giovane non aveva mai preso la patente. Per lui, che ha anche rifiutato di sottoporsi al controllo etilometrico, è scattata la denuncia per resistenza pubblico ufficiale, oltre che per la guida senza il documento. Il conducente e un altro passeggero originario del Marocco erano già noti alle forze dell'ordine per diversi reati, compreso lo spaccio di stupefacenti. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tra i molti autori presenti ieri a Pordenone Legge c'era l'israeliano Roy Hen. Ha presentato il libro Il grande frastuono, una storia che vede protagoniste 3 donne, figlia, madre e nonna. La conversazione ha toccato i temi dell'attualità. Hen ha definito fascista il governo Netanyahu e si è detto sconvolto per quanto accade a Gaza, ma allo stesso tempo ha ammonito contro il crescente antisemitismo e il tono di alcune manifestazioni filo-palestinesi che invocano di fatto la distruzione dello Stato di Israele. Ascoltiamo un passaggio del suo discorso di ieri. Ognuno che ha cuore, occhi, cervello, figli, genitori, non può ignorare la sofferenza del popolo palestinese e dobbiamo fare tutto per fermare questa follia, questo crimine orribile che sta facendo in questo momento. Allo stesso tempo sono stato in Israele, a Tel Aviv, il 7 ottobre. E mi ricordo molto bene questo giorno, anche perché conosco personalmente le persone che sono state uccise, rapite in questo giorno, e anche questo è diventato una parte della nostra vita per sempre. Allora, oggi stasera siamo qui per offrire un linguaggio che è l'incontrario di quello che usa la politica, il linguaggio della letteratura o d'arte, dove c'è un spazio per le voci diverse, per un dialogo, che è quello che ci manca di più. Oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer e all'imbrunire Trieste e il Carso si accenderanno di viola per iniziativa dell'associazione The Banfield. Prenderanno questo colore una serie di monumenti e palazzi. Per affrontare le demenze e le malattie neurodegenerative, uno degli strumenti è rappresentato anche dai centri diurni, che sono fondamentali per dare risposta ai pazienti e alle loro famiglie. Ci spiega perché Luca Sibilla, vicepresidente regionale di Conf Cooperative Feder Solidarietà, associazione che riunisce 157 cooperative sociali del Friuli Venezia Giulia. Centri diurni sono 27 per un totale di circa 500 posti, di cui però solamente 11 per un totale di poco più di 200 posti sono destinati a persone che hanno di base una demenza come l'Alzheimer. Sono molto importanti perché consentono alla persona di restare a casa più a lungo possibile, dando sollievo alla famiglia, che può fruire di questi servizi in maniera molto flessibile nelle giornate in cui è più piacere e in cui è meglio anche per la persona con la demenza. E all'interno di questi centri si svolgono tante attività con varie figure professionali che vanno dallo psicologo al terapista occupazionale, all'educatore, l'OSS, l'infermiere, e attraverso attività quotidiane ma anche attività più strutturate che vanno dalla stimolazione cognitiva all'attività motoria, anche solo banalmente apparecchiare la tavola, consente anche a chi ha una demenza, un problema cognitivo, di mantenere più a lungo delle abilità residue. Come può essere valorizzato ancora di più questo modello in Friuli Venezia Giulia? Ma attraverso un percorso di cultura, anche nelle persone, no? Come una volta si portavano i bambini all'asilo nido e non era era un po' stigmatizzata questa cosa, adesso bisogna anche credere alla possibilità che nei centri diurni le persone trovano una risposta e le normative ne devono continuare a incentivare le specificità dei centri diurni, che non sono contesti istituzionali, sono case, sono comunità, sono ambienti familiari. Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al meteo, il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 23 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 24 gradi e 5 decimi, a Gorizia 25,5, a Udine 24, a Pordenone 23 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 21 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 20,5, a Tarvisio 20, a Sappada 18 gradi, a Piancavallo 17, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 16 gradi, a Lignano 25 gradi 5 decimi, a Grado 24,5. In entrambe le località la temperatura del mare è di 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, prevelature ad alta quota, venti a regime di brezza, temperature massime superiori alla norma del periodo. Eccoci allo sport calcio, torniamo alla sconfitta casalinga dell'Udinese a opera di un Milan travolgente, 3-0 il risultato finale, i bianconeri hanno sofferto in particolare a centrocampo. Sentiamo il commento di Jürgen Eckelenkamp, raccolto dal collega di Radio Rai Massimo Barchiesi. Troppo forte il Milan per questa Udinese. Sì, penso oggi una partita difficile per noi. Abbiamo avuto un inizio bene, 15 minuti, ma dopo l'energia, non abbiamo avuto l'energia oggi dopo questo 15 minuti. Forse il gol del 2-0 di Fofana all'inizio, al primo minuto. Un po'. Ma anche 0-1 anche un po' decisive. Sì, anche. Restiamo a Udine, dove oggi si è disputata la 25esima maratonina internazionale. Oltre 1200 i partecipanti, ma di scena anche la Straudine, prova amatoriale sulla distanza dei 10 km, aperta a tutti. Mezza maratona femminile a senso unico a Udine, dominata da una debuttante della 21 km, l'eritrea Rael Daniel, classe 2001. Stacca di 5 minuti le inseguitrici. Nella competizione maschile in 3 al comando fino al 15esimo chilometro, poi l'allungo di Vincent Momani, keniota 25enne e già vincitore quest'anno a Trieste. È lui il primo a tagliare il traguardo della maratonina città di Udine in 1 ora e 3 minuti e 11 secondi. Precede di poche centinaia di metri il connazionale Simon Dudi Echidor. Tra gli uomini quinto e primo tra gli italiani il 32enne Giuseppe Geratana, tra le donne la migliore sul traguardo tra le connazionali è Mariangela Stringaro. Alle 9.30 puntuale lo sparo, 1.162 iscritti per la gara cittadina che festeggia i 25 anni con un aumento del 30% dei partecipanti rispetto al 2024. La metà ai blocchi di partenza provengono dal Friuli Venezia Giulia, presenti nazioni di tutto il mondo, 19 anni il più giovane e 78 anni il più veterano. Un'ora dopo la mezza maratona da piazza Primo Maggio parte la Straudine, la non competitiva rivolta anche alle famiglie da poco meno di 9 km. Sul traguardo di via Vittorio Veneto si mescolano le gioie, più o meno stravolte, di chi della corsa ha fatto una professione e di chi si cimenta con il cronometro per rendere più bella la propria vita. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. A Lignano ultima giornata per la quarta edizione di Italian Bike Week, la festa del mondo delle due ruote, non solo. Sulle assolate spiagge di Lignano ci sono ancora gli ultimi vacanzieri, ma è sulle strade della località turistica che si registra il maggior numero di ospiti, quasi tutti su due ruote. Sono infatti circa 100.000 gli appassionati che in questo fine settimana stanno partecipando all'Italian Bike Week, l'appuntamento di fine estate dedicato ai motori. Uno spettacolo impressionante di moto custom, bagger e vintage che muove un giro d'affari di circa 10 milioni di euro, linfa vitale per gli albergatori lignanesi per chiudere in bellezza la stagione. Mike Persello, organizzatore di Italian Bike Week. Abbiamo avuto persone che arrivavano dall'America Latina, dal Vietnam, da diverse regioni asiatiche, pertanto non solo dall'Europa, e questo si rende molto orgogliosi. Esposte moto custom con caratteristiche estetiche particolari, con colori forti, manubri vistosi e finiture decorative. I lavori fatti sono indescrivibili. Curiosità del pubblico per la ricostruzione fatta da una famiglia friulana di una moto Galbusera V8500 realizzata negli anni 30 da un'azienda bresciana, Karin Snydero. Questa moto è stata costruita da mio papà interamente partendo da sole quattro foto dell'epoca del 1938, quindi una ricostruzione da zero. E c'è anche chi è venuto con la neomoglie fresco di nozze. Questa volta siamo riusciti a ricavarci del tempo, essendomi sposato la settimana scorsa, e quindi ne ho approfittato per venire a seguire la mia passione. Un viaggio di nozze tra le moto? Praticamente sì. Lignano, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Per questa edizione è tutto. In redazione ha collaborato Isabella Parutto, per la parte tecnica in regia Federico Comar e Samuel Montalto. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio ancora di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.